3.000 sci la mula, staccando i mulini di figna, ti do 30 fiori. Va bene. Se lasciami la casa e la mula e i mulini, ti do 100 fiori. Va bene. Gianni, se tu mi lasci questa casa e la mula e i mulini di figna, ti gonfio di quattrini. Va bene. Se mi danno a noi la mule, i mulini di signa, e questa casa a quattrini più bene diventata. Sta bene. Ed ecco la camicia. Se ci lasci la mule, i mulini di signa, e questa casa perde 1.000 fiorini. Sta bene. Per vento,